Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. La storia che vi racconteremo oggi è una storia di sogni e di uomini disposti a tutto per realizzarli. Protagonisti sono due imprenditori geniali, due progettisti eccezionali che si incontreranno per caso e si ritroveranno per scelta. Il primo è un nome noto, affascinante, controverso: Ferdinand Porsche. Il secondo è meno noto, ma non per questo si tratta di un personaggio meno romantico e intrigante: Pietro Dusio. I loro sogni hanno la forma scintillante delle prime automobili da corsa, hanno la forma del progresso. Per comprenderli fino in fondo, facciamo un salto indietro nel tempo e andiamo a Parigi, 15 aprile 1900. Il 15 aprile del 1900 è un gran giorno per la Ville Lumière. Viene inaugurata l'ottava esposizione universale, l'Expo. L'esposizione viene organizzata tenendo presente un filo conduttore preciso: celebrare l'inizio del nuovo secolo esaltando tutte quelle straordinarie invenzioni che negli ultimi anni hanno impresso un'accelerazione incredibile al progresso del genere umano. Da tutto il mondo, cronisti e giornalisti descrivono le meraviglie della grande esposizione. Così scrive per esempio un reporter tedesco, Georg Malkowski, sul periodico Wort und Bild. Lo scopo è quello di presentare gli enormi progressi raggiunti nel decennio passato nelle arti, nella scienza e nella tecnologia e il loro stretto legame con il passato immediato e con possibili sviluppi futuri. È stata allestita una straordinaria sezione dedicata al passato, che mette in luce tutti gli straordinari passaggi che l'ingegno umano ha dovuto compiere per giungere fino alla grandezza odierna. Questo padiglione toglie letteralmente il fiato. In un ventennio il mondo sembra aver fatto un balzo in avanti paragonabile a quanto era successo in passato in secoli di storia. Cambia la percezione dello spazio, le distanze si accorciano e il mondo sembra rimpicciolirsi. Le macchine a vapore, sempre più sofisticate, si diffondono su treni e navi e rendono gli spostamenti più rapidi e semplici. Molte linee ferroviarie vengono elettrificate. La radio prima e il telefono poi introducono l'immediatezza nel mondo della comunicazione. La fotografia diventa una moda diffusa, mentre i fratelli Lumière presentano al mondo la loro invenzione, il cinematografo. La semplificazione dell'elettricità porta le città ad illuminarsi, rischiarando il buio della notte dei tempi. In gran parte dell'Europa, una generazione intera sembra ubriacata da questo progresso travolgente e l'Expo di Parigi è la celebrazione assoluta di questa ebbrezza. È la cosiddetta Belle Époque. Da Parigi si propaga in tutta Europa questa energia vitale che finisce per impregnare lo spirito del tempo. Tra architetture Art Nouveau, modernismo, futurismo, il vecchio continente si sente nuovissimo, forte. La storia che vi andiamo a raccontare oggi attraverserà diverse epoche del Novecento. Il suo punto di partenza però è tutto qui, nello spirito della seconda rivoluzione industriale e nella Belle Époque. Durante l'esposizione parigina viene presentata un'automobile straordinaria, è la Löhner Porsche, un veicolo innovativo con motori elettrici direttamente applicati alle ruote che lascia gli appassionati di auto a bocca aperta. Su un numero di Le Figaro in quei giorni compare un'affascinata descrizione della vettura. La nuova epocale scoperta comporta la completa eliminazione di tutte le unità intermedie, attrezzi come ruote dentate, cinghie, catene, differenziali. In poche parole, la produzione della prima macchina elettrica senza trasmissione. L'artefice di quella straordinaria invenzione è il nostro primo personaggio di oggi, Ferdinand Porsche. Ferdinand Porsche. È nato il 3 settembre 1875 a Maffersdorf, oggi Liberec, una delle più graziose e moderne cittadine della Repubblica Ceca. Si trova al nord, non lontano dal confine con la Germania e la Polonia. Il padre di Ferdinand è un umile stagnaio che si fa in quattro per far studiare il figlio, che lo ripaga con eccellenti risultati, in particolare nelle materie scientifiche, per le quali sembra straordinariamente versato. Tra esperimenti chimici improvvisati e progetti innovativi disegnati nella cantina di casa, Ferdinand, ancora in giovanissima età, realizza l'impianto elettrico per la casa di famiglia. Grazie agli sforzi economici della sua famiglia, Ferdinand Porsche riesce ad andare a Vienna, la capitale dell'impero, per completare i suoi studi. E a Vienna incontra la Belle Époque in tutto il suo splendore, naturalmente in salsa mitteleuropea. Per le sontuose strade della capitale dell'impero girano ancora molte carrozze, ma sono numerose anche le prime automobili che affascinano immediatamente il giovane Ferdinand. Porsche studia ingegneria. Appena dopo il completamento degli studi, trova lavoro. L'officina Löhner, guidata dal dottor Ludwig, che lo assume con il compito di progettare automobili da inserire nel portfolio aziendale. Porsche si dimostra subito un ingegnere di grande spessore e di straordinaria creatività, attentissimo al design. La strada che lo conduce alla trionfale Esposizione Universale di Parigi del 1900 è dunque molto breve. La presentazione all'Esposizione Mondiale di Parigi rende Porsche famoso, anche perché l'invenzione gli frutta un'ambitissima medaglia d'oro come miglior innovatore. Löhner produce circa 300 di questi costosissimi veicoli. Nello stesso anno Porsche sviluppa e costruisce anche delle versioni da corsa, trainate dai suoi motori elettrici applicati alle ruote. Il 23 settembre 1900 la Löhner Porsche partecipa a una corsa in salita a Semmering, vicino Vienna, vincendo e stabilendo il nuovo primato del percorso. Una Löhner Porsche costa tra i 10.000 e 35.000 corone austriache, risultando più costosa di un veicolo con motore a combustione. Una macchina elitaria, solo per utenti ricchi e famosi, come il magnate del caffè viennese Julius Meinl, Margrave Sandor Pallavicini, Emil Jelinek Mercedes, Panar Levasseur, il principe Egon von Fürstenberg, il produttore di cioccolato e pioniere del cinema Stolberg Ludwig, l'arciduca Francesco Ferdinando, il banchiere barone Nathan Rothschild. Di quest'auto viene lodata anche la sicurezza, davvero notevole per gli standard dell'epoca. Di Porsche vengono celebrati l'ingegno e la creatività. Tutti voi conoscerete la storia del dottor Faust. Personaggio della tradizione tedesca raccontato da numerosi scrittori in epoche diverse, è la storia di un grande sapiente scienziato che per raggiungere la conoscenza assoluta vende l'anima al diavolo. È una storia metaforicamente applicabile a moltissimi grandi uomini che nella loro prometeica bramosia di successo e di grandezza finiscono per accettare o addirittura ricercare compromessi che lasciano ombre e macchie su di essi. Almeno fino a una possibile redenzione. La tensione faustiana di Ferdinand Porsche è evidente. È un uomo intelligentissimo, di una creatività pari solo alla sua capacità di intuizione, però altrettanto grande è la sua ambizione che lo spinge a stringere patti con il suo demonio, un Mefistofele che ha volti diversi, sempre più spaventosi. Sono i volti del potere. Porsche lascia la Löhner e inizia a lavorare per la Austro-Daimler, sempre come ingegnere. Si è sposato, è padre di due bambini, ha comprato anche una casa estiva chiamata, in onore della moglie, Luisenhütte, sulle montagne austriache, dove Porsche può guidare e sperimentare la macchina che costruisce. Il richiamo irresistibile del potere arriva quando costruisce l'Etrich Taube, il primo aereo austriaco. A Wiener Neustadt, cittadina poco fuori Vienna, si raduna una folla immensa per assistere al volo dimostrativo. C'è anche l'imperatore Francesco Giuseppe che, dopo la presentazione, richiede al giovane ingegnere un colloquio in privato. Le sirene dell'impero spingono Porsche a mettere il suo intuito al servizio dell'esercito austriaco. Inventa infatti il trattore d'artiglieria, veicolo motorizzato a trazione totale che serve al traino dei pesantissimi pezzi d'artiglieria usati sul campo di battaglia. Nel 1916 l'imperatore lo decora con una medaglia al valore per meriti militari. La sua fama inizia a diventare immensa. La storia gli mette però i bastoni fra le ruote. Il 28 giugno del 1919, 44 paesi di tutto il mondo firmano il Trattato di Versailles. L'impero austro-ungarico si dissolve in una miriade di stati. Alla Germania vengono inflitte pesantissime riparazioni di guerra che sfiorano l'umiliazione. Diventano veramente pochissimi i tedeschi che si possono permettere un'auto. Porsche cerca di adeguarsi ai tempi. Lavora sul progetto di un'auto economica che possa essere alla portata di tutti. Elabora un primo progetto, ma la Daimler lo licenzia. Le ossessioni, si sa, si forgiano nel tempo e più si allontana l'oggetto del proprio desiderio, più si alimenta la forza disperata con cui si tenta di raggiungerlo, finendo di fatto per spingerlo ancora più lontano. Dopo aver lavorato a lungo per la Mercedes-Benz, Porsche decide di fondare uno studio privato di progettazione che porta il suo nome. Stipula contratti con le case costruttrici e mantiene allo stesso tempo una certa indipendenza. Nel 1931 si mette a collaborare con Zündapp, un produttore di motociclette. Costruiscono 3 prototipi di auto che presentano subito gravi problemi apparentemente irrisolvibili. Dopo 10 minuti di funzionamento, i motori fondono. Zündapp, a questo punto sfiduciato, si ritira. Allora Porsche trova un nuovo partner nella NSU, un'altra ditta costruttrice di motociclette. È ormai il 1932. Coniugati gli sforzi, insieme migliorano il motore e lo rendono molto più affidabile, anche se questo, dal punto di vista della riuscita sul mercato, non basta. La quadratura per vendere il prodotto a un prezzo popolare, riuscendo anche ad ottenere un ricavo sostanzioso, è ancora lontana. Anche la NSU dunque abbandona, lasciando nuovamente l'intraprendente progettista da solo e alla ricerca di un nuovo partner che possa finanziare la realizzazione del suo sogno. Questo partner arriva ed è proprio la materializzazione del Mefistofele faustiano. La nostra grande nazione ha straordinari tecnici ed ingegneri che lavorano incessantemente per dotare il nostro popolo di grandissimi capolavori assoluti del genere umano. Per questo dobbiamo ringraziarli. Uomini straordinari che spesso lavorano nell'ombra, senza il dovuto riconoscimento. Con il loro aiuto, con la forza del nostro grande spirito germanico, noi realizzeremo la vettura del popolo e garantiremo al maggior numero di tedeschi la possibilità di avere un'automobile. 1933. Adolf Hitler è da poco cancelliere tedesco. Al Salone dell'Automobile di Berlino pronuncia un discorso che viene trasmesso per radio. Porsche, nella sua villa di Stoccarda, lo ascolta rapito. Il programma politico di Hitler è fosco, contraddittorio, ambiguo. Parla del passato per stimolare il progresso e, viceversa, si serve del progresso per sbandierare un ritorno ai valori della tradizione germanica. Le sofferenze patite dal popolo tedesco durante la crisi, seguita alle riparazioni di guerra, alimentano l'abbaglio. Tutta una nazione individua nell'uomo sbagliato il suo profeta. Anche Porsche cade nel tranello. Quel discorso gli sembra il perfetto ponte per realizzare il suo sogno. Il suo percorso faustiano si è compiuto. Basta un telegramma, mandato il giorno dopo alla cancelleria. La chiamata non tarda ad arrivare. Per il futuro Führer, Ferdinand Porsche inizia a progettare la macchina del popolo, la prima Volkswagen. Hitler pone delle condizioni. La macchina deve correre 100 km orari in autostrada, fare 7 km con un litro di benzina, deve essere capace di trasportare 2 adulti e 3 bambini, deve costare meno di 1000 Reichsmark quando la macchina più economica ne costava 1500. Porsche si mette al lavoro, anche se sa che non sarà un'impresa semplice. Mentre lavora al progetto Volkswagen, Porsche viene spinto dal regime a progettare anche auto da corsa che possano difendere i colori della Germania nella Formula Grand Prix, diretta progenitrice della moderna Formula 1. Le macchine progettate da Porsche competono sotto il nome di Auto Union, un consorzio di più marche voluto dal regime apposta per le competizioni, e dominano le gare, suscitando l'ammirazione di tutti. Il pilota Bernd Rosemeyer diventa leggenda grazie alle auto di Porsche. Sono particolarmente orgoglioso che il Gran Premio di Germania sia stato vinto da un pilota tedesco su un'auto tedesca. Colgo l'occasione per ringraziare il nostro grande Führer per il sostegno che ci ha dato. In una delle tante corse in cui partecipa in quegli anni, Porsche incontra in maniera del tutto casuale un personaggio che risulterà determinante per il suo futuro. È proprio Piero Dusio, il nostro secondo personaggio di oggi. Dusio, infatti, in quegli anni è semplicemente un pilota, neanche professionista. finisce per gareggiare spesso in competizioni dominate dalle macchine di Porsche. Casualmente i due si incontrano ai box durante una di esse. Dusio stringe la mano a Porsche, gli esprime tutta la sua ammirazione. Sono ancora del tutto ignari che quell'incontro anni dopo cambierà la vita di entrambi. Per quanto riguarda il progetto dell'auto del popolo, tra il 1936 e il 1937 i primi 34 prototipi vengono provati in un test massacrante, percorrendo oltre 2 milioni di chilometri. Nel 1938 la Volkswagen era praticamente pronta. Fin dall'inizio aveva la forma caratteristica del maggiolino, che nei successivi 50 anni sarebbe cambiata solo in alcuni dettagli. Mi rallegro che un grande progettista e il suo staff siano riusciti a mettere a punto i progetti per la macchina del popolo tedesco. I primi esemplari saranno presto pronti. Allora, e solo allora, capirete perché io abbia voluto che questo progetto andasse avanti fino alla sua straordinaria conclusione. Nel 1938 si inaugura lo stabilimento Volkswagen a Wolfsburg, in Bassa Sassonia. Nasce il sogno di Ferdinand Porsche, l'intramontabile maggiolino. Carrozzeria saldata a un pianale rinforzato, sospensioni a bracci oscillanti ammortizzati dalla barra di torsione, quattro posti, motore quattro cilindri orizzontali raffreddato ad aria di 1500 cm cubi, velocità massima 115 km orari. Ma proprio nel settembre del 1939 Hitler scatena la Seconda Guerra Mondiale e così solo poche macchine vengono costruite. In guerra Hitler ha un gran bisogno di auto militari e perciò la fabbrica che deve costruire le macchine per il popolo viene destinata alla costruzione di mezzi per l'esercito. I generali hanno bisogno di macchine economiche, facili da costruire e da riparare. Così nasce il Kübelwagen, di cui viene anche approntata una versione anfibia, lo Schwimmwagen, e un'altra, la Commanderwagen, per i comandanti e i generali. Il periodo della Seconda Guerra Mondiale è uno dei più difficili per Porsche. Il regime avanza richieste tecnologiche sempre più pressanti. Ferdinand si sente risucchiato in un vortice sempre più inarrestabile e violento. Costruisce macchine da guerra, armi che l'esercito nazista utilizza per bombardare città e fare vittime tra i civili. Sembra non esserci più nessun limite. L'uomo che voleva solo costruire macchine ora è prigioniero del suo stesso sogno. Il vertice dell'aviazione è l'utilizzo negli stabilimenti Volkswagen di operai deportati dai campi di concentramento. Poi arrivano i bombardamenti su Stoccarda. La produzione si interrompe. Porsche si sposta in Austria per sfuggire alle bombe e, come trasognato, incosciente, lì attende la fine del conflitto. La guerra è finita. Gli alleati entrano nel paese. Ferdinand Porsche viene messo agli arresti domiciliari. Per lui sembra finita, i suoi sogni sembrano infranti. Di lui però si ricorda inaspettatamente Piero Dusio, che nel frattempo è diventato un grande costruttore e che è riuscito a preservarsi da particolari incroci col potere. Racconteremo fra poco la sua storia. The story of my life is very plain to read. Starts the day you came and ends the day you leave. The story of my life. Vi abbiamo raccontato la lunga e controversa storia di Ferdinand Porsche, grande sognatore, che proprio sognando ad occhi aperti si è accecato al punto da non vedere la vera natura del regime nazista. Come un Faust moderno, si è dato al demone nazista per inseguire i propri sogni. Quando il crollo del Reich diviene realtà nel 1945, Porsche si trova in Austria, nel suo Buen Retiro. Viene raggiunto dalle truppe francesi di occupazione e viene arrestato. Di lui si ricorda però un costruttore e imprenditore italiano, un personaggio straordinario, romanzesco, felicemente e opportunamente fuori dal suo tempo, Piero Dusio. Piero Dusio. Piero Dusio e Ferdinand Porsche si sono già incontrati e più di una volta. Dusio, infatti, nella sua prima avventurosa vita, è un imprenditore tessile, ma anche un pilota di successo. Ha gareggiato numerose volte in competizioni europee che lo hanno visto affrontare piloti che guidavano auto progettate proprio da Porsche, che spesso stazionava a bordo pista. Qualche soddisfazione come pilota se la porta anche a casa Dusio, ma sono briciole. A vincere tutto negli anni 30 sono le macchine della Auto Union, un consorzio di case automobilistiche tedesche che sforna auto da corsa e che ha in Porsche il maggiore progettista. Dusio quindi coltiva una grande ammirazione per l'ingegnere boemo. Dusio viene dal piccolo comune di Scurzolengo, nell'Astigiano, comune che oltre a Dusio ha dato i natali anche a Primo Nebbiolo, uno dei più grandi dirigenti sportivi italiani. Qui Dusio diventa rappresentante di tessuti, come suo padre. Ha tutte le caratteristiche dell'enfant prodige, sin da bambino amato e coccolato dal suo paese per la sua straordinaria intelligenza. Così, solo 7 anni dopo aver iniziato a lavorare, possiede la sua prima fabbrica di confezioni e tele cerate. Passo dopo passo, l'intraprendente giovane si costruisce una grandissima fortuna. Amante del buon vivere, non trascura neanche le piacevolezze più mondane, il gioco, le belle donne, lo sport, ma soprattutto le auto e la velocità. Lo si vede spesso al volante di scintillanti Alfa Romeo o Maserati, in giro per le stradine delle sue campagne piemontesi. Con queste auto, però, decide di intraprendere anche una carriera di pilota che si rivelerà un altro capitolo entusiasmante della sua straordinaria vita. Nel 1934, al volante della sua Alfa Romeo, vince il titolo italiano dilettanti. Nel 1937, su una Fiat 500, trionfa sempre nella categoria non professionisti alla 1000 miglia 1937. Il suo anno di grazia è il 1938. È primo assoluto alla gara in salita dello Stelvio, terzo alla 1000 miglia del 1938, entrambi su un Alfa Romeo 2900 compressore. Stringe amicizia con i più grandi piloti italiani dell'epoca, con cui trascorre eleganti serate mondane. Parliamo di Taruffi, Varzi, Nuvolari. Torino, alla fine degli anni 30, è una delle capitali industriali d'Italia. Si respira un'atmosfera viva, spumeggiante, intensa. Non a caso, all'ombra della Mole, crescono culturalmente personaggi come Gobetti, Gramsci, Cesare Pavese, il cuore culturale del pensiero antifascista. In questa città viva si estende l'impero commerciale di Piero Dusio, che si ramifica in molti settori legati all'ambito tessile, fino a renderlo una delle prime personalità industriali e uno degli uomini più intriganti e ambiti della città. Tanto che c'è un motto che gira tra i torinesi. Per spiegare Torino a un forestiero, si dice, si va in Piazza San Carlo e gli si dice: «Ecco, vedi, di qua è tutto di Agnelli, di là è tutto di Dusio». Per non farsi mancare nulla, Piero Dusio, dal 1942 al 1948, è anche presidente della Juventus. La guerra non ferma certo la sua ascesa. Il suo rapporto col potere è molto più sfumato di quello di Porsche. Dusio riesce a non compromettersi mai, pur arrivando a sfruttare molte situazioni a suo favore. Negli anni del conflitto rende più solida la sua struttura industriale, diventando unico importatore e distributore per l'Italia della tela cerata. In questi anni il suo impero diventa vastissimo. Oltre all'industria tessile, acquista una banca, degli alberghi, una società di materiale sportivo, una fabbrica di macchine e utensili, produce abbigliamento per il tennis, racchette, biciclette, uniformi. È un uomo moderno, un imprenditore a tutto tondo. La sua passione più grande però rimangono i motori. Così nel 1944 fonda la Cisi Italia, compagnia industriale sportiva italiana, con sede in Corso Peschiera a Torino. L'obiettivo è quello di tentare l'avventura in campo automobilistico. Vuole una scuderia per correre, vuole le macchine da corsa più belle e veloci. Vuole soprattutto bruciare le tappe e centrare subito gli obiettivi. Così, in soli 3 anni, riesce a fare quello che generalmente gli altri impiegano una vita: inventarsi strade nuove, strabiliare il mondo, entrare nella leggenda dell'automobilismo e dell'imprenditoria italiana. La sua prima automobile è la Cisitalia D46. Viene progettata da Dante Giacosa e Giovanni Savonuzzi. Il motore è il 4 cilindri della Fiat 1100, potenziato a 60 cavalli. L'esordio della D46 avviene alla Coppa Brezzi, sul circuito del Valentino, a Torino, il 3 settembre 1946. Le D46 che gareggiano sono addirittura 7, con i migliori piloti al volante. Lo stesso Dusio, Nuvolari, Sommer, Chiron, Taruffi, Cortese e Biondetti. In una gara entusiasmante a vincere è proprio Dusio, ma è Nuvolari a prodursi in un numero che entra nella leggenda e a mandare in delirio la folla. Guida infatti per ben 2 giri con il volante staccato dal piantone dello sterzo e lo solleva con la mano destra sui rettilinei in un atto di studiata teatralità e di sfrontato esibizionismo. Arriva Tazio, nel cuore un'indomabile volontà. La prima Cisitalia Gran Turismo esordisce l'anno successivo, nel 1947, e monta il vecchio 1089 cc della Balilla 1100 su un telaio tubolare. Si chiama Cisitalia 202 ed è una delle auto più belle mai viste, una delle più belle opere di Pininfarina. Verrà prodotta fino al 1953 in più varianti, tra cui alcuni avanzati studi aerodinamici e anche una versione con un motore marino da 2800 centimetri cubi. L'affermazione definitiva della Cisitalia avviene alla Mille Miglia del 1947, prima edizione post-bellica della gara. Alla partenza, 151 vetture. Sono tutte appartenenti al periodo precedente alla guerra, rinnovate e sistemate. Le eccezioni sono la nuova Ferrari 125S, la Maserati A6 GCS e proprio la Cisitalia, che sono però considerate sfavorite. Però le Cisitalia sono macchine affidabili, così grazie ai tanti ritiri altrui, Nuvolari va in testa alla corsa. Proprio nel Piemonte di Dusio, però, da Asti in poi, emerge l'Alfa Romeo guidata da Biondetti, che grazie alla sua maggior potenza supera Nuvolari e si presenta a Brescia con 16 minuti di vantaggio. Nuvolari e Dusio, però, vengono considerati i veri vincitori della gara. A partire dagli anni 30, la classe regina dell'automobilismo è la cosiddetta Formula Grand Prix. Dal 1946 si chiama Formula A, poi Formula 1. Il vero sogno di Dusio è quello di realizzare una monoposto che trionfi nelle gare della massima serie. Quando decide di prendere questa via difficile e complessa, ha già in mente che avrebbe progettato la sua Grand Prix, proprio Ferdinand Porsche, che negli anni 30, oltre alla Volkswagen e ad alcuni progetti militari, si era affermato soprattutto per le auto da corsa. Purtroppo l'attività di Porsche è ferma per volere degli alleati. Per bloccare la produzione industriale tedesca e tenerla sotto controllo, a Porsche vengono requisiti macchinari e attrezzature, lui personalmente arrestato e condotto in Francia in compagnia del genero Piëch. Dusio sa della collaborazione tra Porsche e il nazismo, ma la vede come un doloroso compromesso che un grande genio ha dovuto accettare per realizzare i propri sogni. Ora Dusio vuole realizzare i suoi e decide di ripescare proprio lui. In seguito a una fitta corrispondenza, Piero Dusio riesce a incontrare Ferry Porsche, il figlio di Ferdinand, all'epoca 37enne, e la sorella Louise. L'incontro avviene in provincia di Bolzano. Dusio arriva con la sua enorme e imponente Buick. I Porsche arrivano in treno. L'accordo verbale viene immediatamente raggiunto e all'inizio del 1947 si arriva alla firma. Lo studio Porsche ottiene così la sua prima commessa dopo la guerra. Si impegna a fornire alla Cisitalia il progetto di due vetture, una sport e una da gran premio, di un trattore agricolo e di una turbina. Dusio si accolla il pagamento di tre rate quadrimestrali in tre valute differenti, data la crisi mondiale e l'instabilità di tutte le monete. La Porsche si impegna inoltre ad offrire assistenza tecnica a fronte di un pagamento di ulteriori 500.000 scellini e del mantenimento per 10 tecnici, tra cui Rudolf Ruska, il futuro papà del progetto Alfa Sud, e Carlo Abarth. Dusio ai suoi amici dichiara più volte: «Mi rovino, ma faccio la Grand Prix». Così è se si pensa che Dusio investe tutto il suo patrimonio. Ferry Porsche, con le entrate finanziarie ottenute, può pagare la scarcerazione del professor Ferdinand e dare il via alla ricostruzione. Ferdinand Porsche, il Fausto boemo che aveva venduto la sua anima al diavolo nazista, esce dal suo inferno. È libero, grazie a Piero Dusio. La vettura da Gran Premio, oggetto principale dell'accordo, viene denominata 360, è disegnata da Ferry Porsche ed è pronta nel 49, quando già la Cisitalia era in forte crisi. Dusio era convinto che avrebbe recuperato il denaro dalle vendite della 202. Purtroppo, però, proprio quest'ultima vive una stagione di successo nell'immediato dopoguerra, ma poi si arena, facendo crollare tutti i piani di sviluppo futuri, ma non il prosieguo della sperimentazione, sostenuta solo dalla caparbietà dell'imprenditore piemontese. Anche nel caso di Dusio, come in quello di Porsche, elemento propulsore è un sogno inseguito con forza, ostinazione e scarsa razionalità. Un sogno bellissimo. In rete si trovano foto della 360 Grand Prix, una macchina a dir poco incredibile. La 360 è una GP a telaio tubolare con motore posteriore, spinta da un 1512 valvole con doppia sovralimentazione volumetrica, cambio con innesti sequenziali e trazione integrale inseribile. Parole complesse che si traducono in una macchina che sulla carta sarebbe stata invincibile, vista anche la strabiliante potenza del piccolo plurifrazionato, oltre 500 cavalli misurati al banco. Si deve dire sarebbe stata, perché ancora nel 1950 la 360 era allo stadio sperimentale. Nel 1950 la CIS Italia è costretta a chiedere l'amministrazione controllata e l'anno seguente è aperta la procedura per il concordato preventivo. Dusio riesce prima a portare a termine il progetto 360 e poi scorporarli dal resto dell'impresa. Non vuole assistere al crollo della sua azienda, vola via, trasferendosi in Argentina e portando con sé il progetto 360 e tutti i pezzi. In terra sudamericana vuole ricostruire il suo sogno. Ferdinand Porsche e Piero Dusio, due imprenditori e costruttori che vivono per le automobili e inseguono sogni di grandezza legati alle auto. Quando Porsche, dopo la Seconda Guerra Mondiale, sembra finito, punito dagli alleati per il suo collaborazionismo con il nazismo, proprio Piero Dusio lo va a ripescare, pagandogli di fatto la cauzione e facendo disegnare a lui e a suo figlio Ferri la monoposto che dovrebbe competere nella Formula Grand Prix per la sua casa automobilistica, la CIS Italia. Solo che CIS Italia, proprio per le spese affrontate per la realizzazione dell'auto, fallisce, mentre nasce la Porsche. In un mondo difficile come quello dell'imprenditoria, nel periodo post-bellico, è raro trovare spazio per sentimenti autentici. Ferri Porsche, però, ha sempre pubblicamente dimostrato gratitudine a Dusio per la sua generosità. Abbiamo deciso di aggiungere alla denominazione del nostro nuovo modello 550 il termine Spider, in onore a Piero Dusio, che per primo l'aveva utilizzato per la sua CIS Italia 202, la Spider 1000 miglia. I Porsche, infatti, grazie all'ingente somma sborsata da Dusio, possono ripartire e creare un marchio autonomo dopo gli anni del regime trascorsi a costruire il progetto Volkswagen. Ferri Porsche è il nuovo guru dell'azienda, mentre il professor Ferdinand, suo padre, si ritira con la fine degli anni 40 nella sua idilliaca tenuta austriaca. Tra il 1946 e il 1948 viene messo in cantiere il progetto 356, una nuova vettura il cui primo esemplare viene ultimato proprio nel 1948 e viene presentata al Salone di Ginevra. È l'inizio di una tradizione grandiosa, fatta di eleganza, design e di alta ingegneria, di lusso. Ogni volta che vediamo una Porsche per le strade, però, è giusto ricordarci che nella tradizione teutonica di quell'auto c'è anche una fetta d'Italia. A Stoccarda oggi c'è il Museo della Porsche, visitato ogni giorno da migliaia di appassionati. In esso si trovano tutte le chicche, i cimeli e le curiosità della grande casa automobilistica. All'interno di esso, però, si trova anche un'auto che porta il marchio CIS Italia. È la 360. La monoposto da corsa, infatti, era stata ultimata solo in due splendidi esemplari che purtroppo non hanno mai gareggiato. Quello esposto a Stoccarda è l'esemplare che Dusio si era portato in Argentina, smontato in pezzi, e che aveva fatto riassemblare lì, in Sud America. Si trova in quel luogo a ricordare che senza lo straordinario incrocio di destini tra Ferdinand Porsche e Piero Dusio, forse non ci sarebbe stata mai, in nessuna parte del mondo, un'auto con il marchio Porsche. L'altro esemplare di CIS Italia 360 si trova nel Museo dell'Automobilismo del Circuito Inglese di Donington, perfettamente integra e ben conservata. And you too will go just like the dog days do. I'll put on my hat, my gloves, my scarf to keep the cold apart. La CIS Italia, nel frattempo, negli anni 50, tenta una disperata impresa di rilancio. Tenta di risalire dal tracollo, anche se Dusio è in Argentina. Una pallida ripresa avviene nel 1952. Per rilanciare l'immagine del gruppo, CIS Italia stringe un accordo con una casa produttrice di motori marini, la BPM, per poter montare sulle sue vetture un motore di 2,8 litri. In CIS Italia decidono di montarlo su una 202 e di partecipare alla 1000 miglia di quell'anno. Al volante viene richiamato proprio Piero Dusio, tornato appositamente dall'Argentina. In coppia col figlio ottiene buoni risultati, rimanendo a lungo nei primi 3 posti prima di ritirarsi per la rottura della frizione. Nel 1953 Piero Dusio si ritira dall'azienda da lui fondata. L'azienda a fatica va avanti ancora qualche anno. La principale attività, con la denominazione Cisitalia Autocostruzioni e caparbiamente continuata dal figlio, Carlo Dusio, si limita alla trasformazione esteriore delle vetture di serie di altre marche, come già facevano vari carrozzieri e preparatori dell'epoca. Cisitalia perfeziona e inventa carrozzerie su telai altrui. La produzione si trasferisce a Racconigi. È l'anticamera della fine. Nella prima metà degli anni 60, la continua escalation tecnologica della produzione automobilistica e la contrazione della domanda di mercato per le carrozzerie speciali convince Carlo Dusio ad abbandonare i propositi di rinascita. La chiusura dell'azienda avviene nel 1963. Avviene con un gesto simbolico, fortissimo e poetico. Carlo Dusio, amareggiato per la decisione presa, sconfitto per avere definitivamente dissolto il sogno del padre, si reca a Torino, nella città che aveva celebrato i fasti paterni. Va sulla sponda del Po e lancia in lacrime, nelle acque del fiume, l'albero motore della Cisitalia Grand Prix. Il marchio Cisitalia non sprofonda in quelle acque, ma rimane per sempre legato a un modello, la 202 Spider, auto che segna un'epoca sul piano del disegno industriale applicato. Un esemplare di essa a rappresentare il buon gusto e l'eleganza che caratterizza quella storia di imprenditoria italiana è esposto al Museum of Modern Art di New York. La dicitura che l'accompagna è «scultura in movimento, esempio di eccellenza del design italiano». Aggiungiamo noi «esempio di un sogno». Che si è fatto realtà. Satellite in my eyes, like a diamond in the sky. How I wonder. Satellite strong from the moon. And the world your balloon peeping Tom for the mother station. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco.